sono disorientato, o meglio ancora sono disarmato di fronte a quanto manda a dire il Vangelo di Giovanni. Però provo a dire alcune cose che mi hanno catturato. Gesù piange di fronte al sepolcro. Non è che voglio fare l'elogio delle lacrime. Si commuove. Ma si commuove proprio perché Gesù è dentro la condizione umana. Sa che cosa può significare la morte. Infatti, non a caso dirà più tardi: se è possibile, passi questo calice. Ma sappiamo che non si commuove solo dinanzi alla morte, perché la sua pietà, la sua tenerezza, la sua condivisione, la sua partecipazione avvolge tutto il mondo degli affetti. Richiamo che abbia fatto un percorso con dei foglietti sulle emozioni e i sentimenti di Gesù. La sua parola svela, scoperchia la condizione indebita dell'uomo, la condizione indebita dell'uomo. Attorno a lui si aggirano lebbrosi, malati, madri che hanno perso il figlio, coloro che sono colpiti dal dolore, che fanno fatica a prendere sul serio la vita, che sono disorientati, e qualcuno che si trova con la coscienza strappata, problemi di attualità, sparati, divorziati, comunione, non comunione, per fare un esempio. Poi se vado in Afghanistan a vedere cosa succede, vabbè. Si aggirano coloro anche che sono detentori di potere, coloro che si agitano nella vita. Faccio un'osservazione che è molto, forse potevo esprimerla meglio, ma faccio leva sulla vostra intelligenza e dico: se la nostra fede la poniamo solo là dove ci conduce l'esigenza della nostra natura, cioè al limite del sepolcro, propriamente detto, se la nostra fede arriva lì, noi siamo inadatti ad ascoltare l'intero discorso di Gesù Cristo. Perché la risposta di fede è una risposta che viene fuori, sì, dalla nostra condizione umana, ma che risponde all'esigenza di Dio. E qui bisogna far silenzio. Mi verrebbe voglia di chiedermi: ma quali sono i sepolcri che a me piacerebbe scoperchiare? Ma il discorso ci porta lontano. E mi preme invece suggerire un'altra riflessione. La parola di Gesù che afferma: io sono la risurrezione e la vita. Di fronte alla risurrezione diciamo: ma com'è possibile? l'ubriacatura della mente che si pone a questi interrogativi. E Gesù dice: credi tu questo? E lo chiede a Marta. È il dialogo estremo di ogni nostra riflessione di credenti. Credi tu questo? Non mi pare che sia frequente che i credenti, i frequentatori della Chiesa, noi, siamo interpellati dalla risurrezione. Piuttosto ci attorcigliamo attorno al discorso della morte. È da rifiutare l'idea di risurrezione come strumento di consolazione, perché non ci si può accostare a una verità se non attraverso un profondo amore per la vita. Capite qualcosa lì? Dove si dice amore per la vita, vuol dire che la vita è ieri, oggi, domani. La risurrezione non è un evento biologico, commisurato tra l'altro al nostro orgoglio di esseri che non vogliono morire. Legittimi, eh? La risurrezione è il punto culminante che abbraccia tutte le speranze. Mi spiego meglio per chiudere. Notate che è un salto, un passaggio molto... Non è corretto isolare questa speranza che coltiviamo dalle altre tante speranze. Quando il profeta Ezechiele, prima lettura, parla di risurrezione, ne parla a degli ebrei in esilio. E la risurrezione voleva dire uscire dall'esilio e ritornare a casa. Uscire dall'Egitto, ritornare a casa. Le speranze, o meglio, la speranza ha infiniti nomi. E ognuno di noi che è qui presente può dare un nome diverso alla speranza. La risurrezione abbraccia l'intero perimetro della nostra speranza, liberandole da ciò che esse hanno di egoistico, di effimero. Io sono la risurrezione e la vita. È un'affermazione che richiama con forza alla grandezza dell'unico Signore, capace di trasformare una storia anonima, magari perdente, in una storia di salvezza. Tutto per la gloria di Dio che si manifesta. Mi sarebbe piaciuto infilare dentro qui il discorso del rapporto tra la creazione e la risurrezione. Sarà per un'altra volta. Gloria a Dio nell'alto dei cieli.